Io sono uno zombo con l'occhio a palombo e il passo di piombo annuncia che incombo. Ruggisco e rimbombo, ronzo come un bombo, mangio il cervello ma non mi ricresce. Sono vivo e vegetale, ormai più pianta che animale. Mi distraggo dalla vita, aspetto solo che sia finita. Ho comprato un cellulare che mi evita di amare, un mega televisore che mi salva dal rumore di una realtà che assilla, da cui scappo come anguilla. Mi rifugio nei gingilli tecnologici cavilli con cui tritto via lontano da ciò che c'è ancora di umano. Ed è inutile che fuggi, tanto ti riprendo all'auto che non parte. Sono uno zombo con l'occhio a palombo, il passo di piombo annuncia che incombo. Ruggisco e rimbombo, ronzo come un bombo, mangio il cervello ma non mi ricresce. Quando esco pavoneggio, sempre qualche nuovo aggeggio. Agli amici piaccio molto, perché taccio e non ascolto. Sono la compagnia ideale per star soli e senza sale. Non induco in tentazione di arrischiare un'opinione. E puoi dirmi tutto tanto, stai sicuro che non canto. Banalità e tecnologia mi difendono da tutto e anche da me. Con l'occhio a palombo, il passo di piombo annuncia che incombo. Ruggisco e rimbombo, ronzo con un bombo, mangio il cervello ma non mi ricresce. Geek non è un singhiozzo, geek è un tipo di ghiozzo. Geek forse un poco rozzo, geek giù nel gargarozzo. Geek mi sa che mi strozzo e sono un zombo. Con l'occhio a palombo, il passo di piombo annuncia combo, ruggisco e rimbombo, ronzo come un bombo, mangio il cervello ma non mi ricresce. Mai. No, proprio mai, mai. No, neanche in quel caso.